senso per me. Ora che io ho scoperto cosa hai fatto tu a me, per tutto quello che abbiamo fatto insieme io e te. Ma come hai potuto tradire proprio me? Dicevi che mi amavi, era luce intensa e poi l'oscurità è scesa su di noi. Che ormai è troppo tardi, hai sbagliato con me, ma non mi rivendicherò per tutto quello che hai fatto a me. Ti dirò solamente due parole che ti toccheranno il cuore. Per me non ti va a permettere, hai ferito l'orgoglio che in me, hai recitato male la parte di questo nostro film. Se non avessi fatto sti cose kill, adesso non stavo a parlarti così e non ti direi che ormai è finita. Sempre insieme a te, ormai è finita. Purtroppo hai spento la mia vita, ormai è finita. E ti giuro che non piangerò se adesso vai via da me. Farmi ancora del male, oh no, è finita ormai.